i figli di Israele partirono e si accamparono nelle steppe di Moab, al di là del Giordano di Gerico. Baale aveva fatto agli Amorrei. Moab ebbe una gran paura per il popolo, perché era molto, e Moab tremò davanti ai figli di Israele. Moab disse agli anziani di Madian: «Ora questa ciurma farà un pasto di tutti quelli che ci sono intorno, come il bue mangia l'erba del campo». Balak, figlio di Zippor, era re di Moab in quel tempo. Mandò perciò messaggeri a Balaam, figlio di Beor, a Petor, che è presso il fiume, terra dei figli di Amau, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto, ha coperto la superficie della terra e sta in faccia a me. Orsù, muoviti, maledicimi questo popolo, perché è più potente di me, forse potrò colpirlo e cacciarlo dalla terra, perché so che chi benedici è benedetto e chi maledici è maledetto». Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian andarono con i doni per gli indovini nelle loro mani, arrivarono da Balaam e gli riferirono le parole di Balak. Egli disse loro: «Alloggiate qui questa notte, poi vi riferirò la parola che il Signore mi dirà». I principi di Moab stettero con Balaam. Dio venne da Balaam e disse: «Chi sono quegli uomini che stanno presso di te?» Balaam rispose a Dio: «Me li ha inviati Balak, figlio di Zippor, re di Moab, a dirmi: ecco, un popolo uscito dall'Egitto ricopre la superficie del paese, orsù vieni, maledicimelo, forse potrò combatterlo e cacciarlo». Dio disse a Balaam: «Non andare con loro, non maledire quel popolo, perché è benedetto». Balaam si alzò di buon mattino e disse ai capi di Balak: «Andate nella vostra terra, perché il Signore non mi ha permesso di venire con voi». I capi di Moab si alzarono, vennero da Balak e dissero: «Balaam non è voluto venire con noi». Balak mandò altri capi più numerosi e importanti di quelli. Vennero da Balaam e gli dissero: «Così ha detto Balak, figlio di Zippor, non rinunciare a venire da me, perché voglio onorarti molto e tutto quello che mi dirai lo farò. Orsù, vieni, maledicimi questo popolo». Balaam rispose e disse ai servi di Balak: «Se Balak mi desse la sua casa piena di argento e oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore mio Dio per fare cosa piccola o grande. E ora state qui anche voi questa notte, e vi farò sapere che cosa il Signore mi dirà ancora». Dio venne da Balaam di notte e gli disse: «Se gli uomini sono venuti per chiamarti, alzati, va con loro, ma fa solo quello che ti dirò». Balaam si alzò di buon mattino, sellò la sua asina e andò con i capi di Moab. Ma lo sdegno di Dio si infiammò perché se n'era andato, e l'angelo del Signore si pose sul cammino per ostacolarlo. Egli cavalcava la sua asina e con lui c'erano due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che se ne stava sulla strada con la spada sguainata nella sua mano, e ripiegò dalla strada e andò nel campo. Balaam percosse l'asina per farla ritornare sulla strada. L'angelo del Signore si pose in un viottolo tra le vigne, con un muro da una parte e un muro dall'altra. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse contro il muro e premette il piede di Balaam contro il muro. Egli la percosse ancora. L'angelo del Signore passò ancora e si pose in un luogo stretto, dove non c'era strada per piegare a destra e a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si accasciò sotto Balaam. Lo sdegno di Balaam divampò e percosse l'asina con il bastone. Il Signore aprì la bocca dell'asina, che disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto per percuotermi in questo modo per tre volte? Balaam disse all'asina: «Perché ti sei burlata di me? Avessi una spada in mano, ti ammazzerei ora». L'asina disse a Balaam: «Non sono io forse la tua asina, sulla quale hai sempre cavalcato fino a oggi? Mi sono comportata di solito così con te?» Disse: «No». Il Signore aprì gli occhi di Balaam, ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano. Si chinò e si prosternò davanti a sé. L'angelo del Signore gli disse: «Perché hai percosso la tua asina in questo modo per 3 volte? Ecco, io sono uscito per ostacolarti, perché la strada dirotta davanti a me. L'asina mi ha visto e ha ripiegato per 3 volte davanti a me. Per fortuna ha ripiegato davanti a me, perché altrimenti avrei ucciso te e avrei lasciato in vita lei». Balaam disse all'angelo del Signore: «Ho peccato, perché non sapevo che tu stavi davanti a me sulla strada. E ora, se è male ai tuoi occhi, ritornerò indietro». L'angelo del Signore rispose a Balaam: «Va con gli uomini, ma dirai soltanto la parola che ti dirò». Balaam andò con i capi di Balak. Balak sentì che Balaam arrivava e uscì incontro a lui a Dir Moab, che è sul confine dell'Arnon, all'estremità del confine. Balak disse a Balaam: «Non avevo forse mandato a chiamarti? Perché non sei venuto da me? Non posso io veramente onorarti?» Balaam disse a Balak: «Ecco, sono venuto da te. Posso io dire qualcosa? Dirò quello che Dio mi metterà in bocca di dire». Balaam andò con Balak e arrivarono a Kiriat Kusot. Balak immolò buoi e pecore e li mandò a Balaam e ai capi che erano con lui. Al mattino Balak prese Balaam, salirono a Bamot Baal e di là gli mostrò la parte estrema del popolo.